Linee d'ombra di Matteo Caccia. D'accordo, ma come faccio a riconoscerla, mi chiede. Io alzo gli occhi e vedo un disco di Gabriella Ferri con la chioma bionda e dico: avrò un disco sotto il braccio con la foto di una ragazza bionda. Storie di telefonate che ti cambiano la vita e dell'origine della festa dei lavoratori, in una puntata che si intitola Un lavoro ben fatto. Chris Gardner, piacere. Sono stato seduto là fuori per mezz'ora cercando di trovare una storia per giustificare il fatto di essere venuto qui vestito in questo stato. E ho cercato di pensare a una storia in grado di dimostrare delle qualità che sono sicuro voi apprezziate qui, come l'essere volenterosi, essere precisi, avere un obiettivo, fare gioco di squadra, ma non mi è venuto niente in mente. La verità è che sono stato arrestato per non aver pagato una serie di multe. Una serie di multe? Cosa? Me la sono fatta di corsa fin qui da Polk Station, dalla centrale di polizia. Che stava facendo prima che l'arrestassero? Stavo imbiancando l'appartamento. È asciutto adesso? Spero di sì. Jay dice che lei è molto determinato. È stato ad aspettarmi fuori all'ingresso con un attrezzo di quasi 20 kg per oltre un mese. E dice che è intelligente. Mi piace pensarlo. E vuole imparare questo mestiere. Sì, voglio imparare questo mestiere. Questo che abbiamo sentito è un estratto, è un piccolo estratto da un film che si intitola La ricerca della felicità, un film con Will Smith, di quei film americani in cui tutto va storto, in cui sembra che le cose, la vita si accaniscano contro quest'uomo che non ha la moglie, che ha un figlio da mantenere e soprattutto non c'ha un lavoro e si arrabatta in tutti i modi per cercare lavoro. E quando, dopo appostamenti, dopo richieste, riesce finalmente a tenere un colloquio in questo luogo super figo, dove ci sono questi cinque davanti a lui seduti che lo aspettano in un grattacielo all'ultimo piano e gli vogliono fare un colloquio. Lui ha avuto un problema enorme, è uscito da una centrale di polizia poco prima e arriva con un giacchino, una maglietta sporca, macchiato in faccia, un paio di jeans, e cerca di immaginare una scusa per spiegare per quale motivo è arrivato lì così, in quel modo, da loro il curriculum. E a un certo punto quello più anziano del gruppo, che presumibilmente è il capo, è quello che quindi ha l'ultima voce in capitolo, gli dice: per quale motivo io dovrei assumerla? Cioè, se io gli dicessi che ho assunto un tizio che è venuto a un colloquio senza nemmeno una camicia, e lei cosa mi direbbe? E lui lo guarda e gli dice: gli direi che probabilmente va su dei gran bei pantaloni. Lì tutti quanti si fanno una risata, si scioglie la tensione e il colloquio va avanti. Abbiamo scelto questo inizio di programma, questo inizio con Will Smith che fa questo colloquio che inizialmente va tutto storto e poi ovviamente andrà molto bene, per cominciare una puntata che si intitola Un lavoro ben fatto. Perché? Perché oggi è il primo di maggio. Forse non ve ne eravate accorti, perché da qualche settimana grosso modo le giornate si somigliano tutte. Purtroppo non è il primo di maggio che siamo abituati a vivere da ormai, non lo so, direi 100+ anni a questa parte, grosso modo, da quando è nato la celebrazione del primo di maggio. E oggi vi racconteremo quando è nato e come è nato, vi racconteremo la storia del primo di maggio, ma soprattutto vi dicevo, non è sicuramente il primo maggio che immaginavamo, presumibilmente nemmeno 3 mesi fa, perché appunto è un primo maggio molto molto diverso dagli altri. Ormai è quasi ridondante spiegarlo ed è quasi ridondante cercare di capire che cosa accadrà. Forse qualcosa accadrà la prossima settimana, più o meno sappiamo che qualche piccolo cambiamento dovrebbe esserci e vedremo poi come andrà avanti. Però di fatto oggi in questa puntata noi vogliamo comunque celebrare questa giornata, anche se è una festa del lavoro un po' particolare, perché il lavoro è cambiato in questi mesi, sta cambiando nelle nostre vite e probabilmente per molti di noi cambierà perché cambieranno i modi, cambieranno gli orari, forse, ma chi lo sa. Non siamo veggenti e soprattutto noi qui raccontiamo storie, quindi facciamo quello che dobbiamo fare attraverso i messaggi, attraverso le storie che ci mandate voi, attraverso le storie che troviamo in giro o attraverso anche le storie che sono un fondamento della nostra comunità, perché appunto la storia di come è nato la festa dei lavoratori, il primo di maggio, ve la racconteremo oggi. Prima però apriamo con un'altra storia, la storia di un lavoro che viene preso in maniera veramente rocambolesca. Si parla di moltissimi anni fa e il nostro ascoltatore ci ha raccontato che cosa è successo quando nel cuore della notte è suonato un telefono. Benvenuti a Linea d'Ombra. Il 14 agosto del 1974 ero con mia moglie e i due figli in un campeggio a Silvi Marina, vicino a Pescara. Dopo che abbiamo festeggiato il compleanno di mia moglie con gli amici, io decido di tornare a Roma, insieme a tutta la famiglia. Non volli sentire nessuno, né le proteste di mia moglie, né quelle degli amici, che mi prendevano per pazzo. Partimmo con la mia auto, una AMI 8, nel tardo pomeriggio e arrivammo a Roma poco prima delle 2 di notte. E proprio mentre stavo aprendo la porta di casa, sentii il telefono che suonava. Lasciai i bagagli all'uscio, mi precipitai alla cornetta, imprecando contro chi mi chiamava ad un'ora così tarda. «Pronto», risposi duro. Il chiamante mi chiese in inglese se parlavo quella lingua. Alla mia risposta positiva, la voce continuò sempre in inglese a dirmi «Lei ha presentato una candidatura per un posto alle Nazioni Unite?» «Sì», risposi io. Era nel 75, avevo 34 anni, perché sono del 41. Avevo fatto una domanda così aperta e così cercavano uno che fosse demografo e che avesse esperienza giornalistica. Io avevo fatto studi statistici e demografici e avevo fatto anche una scuola di giornalismo. E in più che potesse lavorare in inglese, in francese, indifferentemente, quindi rispondevo a tutte queste qualifiche. La voce al telefono era quella del capo della divisione degli studi sulla popolazione in Africa della Commissione delle Nazioni Unite, proprio per l'Africa. Da quando sono arrivato a Roma, mi disse, ho provato a chiamarla un sacco di volte. Tra poche ore, stamattina, io dovrò partire e ho deciso proprio di fare un ultimo tentativo. Il servizio del personale mi ha chiesto di incontrarla per una valutazione delle sue competenze, per un posto che è libero nella mia divisione, ha continuato. E lei è tra i candidati prescelti. Però, ha proseguito, come le ho detto, io parto tra poche ore, destinazione Bucarest, per la conferenza mondiale sulle popolazioni, e parto dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Come facciamo per vederci? Io, prontissimo, risposi che ci potevamo vedere al banco delle registrazioni per l'imbarco, lì in aeroporto. D'accordo, disse lui, ma come faccio a riconoscerla? A quel punto io alzo la testa e vedo sulla libreria un disco di Gabriella Ferri con la chioma bionda e gli dico «Avrò un disco sotto il braccio con la foto di una ragazza bionda». Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti d'esta Roma bella, ci sono ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorare. E le ragazze famo innamorare, ma che ce frega, ma che ce importa, se lo star vino ci ha messo l'acqua, e noi adimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagammo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo ancora. E se per caso vi è il padrone di casa, del botto, della ghia e della pigione, e noi rispondiamo a solo, t'amo pagato e te pagamo più, t'amo pagato e te pagamo più, che ci rifrega, che ci rimporta, se lo star vino ci ha messo l'acqua, e noi adimo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo coro, a maggior vino degli castelli che testa zozza società. Alle 7 mi presento davanti al banco. Dopo poco vedo un signore venire verso di me. Hello, sono Gansa, mi dice. Abbiamo parlato stamattina, poche ore fa, al telefono. Io mi presento a mia volta. L'emozione è tale che parlando della mia ambizione di lavorare per l'ONU, mi confondo e gli dico per gli USA, per gli USA. Per fortuna lui capisce molto prima che io mi corregga. Simpatizziamo subito. Fa la sua valutazione e parte, senza darmi il risultato. Le mie aspettative erano molte, perché con la persona che mi ha intervistato avevamo legato veramente bene subito. Lui, essendo del Ghana, io sono della Guinea, avevamo legato anche per questa vicinanza dei due paesi. Non ero al 100% sicuro, però speravo molto. Mi ha chiesto prima di tutto perché volevo lavorare all'ONU, poi delle cose che rientravano nella materia per la quale sarei stato assegnato a Addis Abeba, demografia africana. Poi parlando, invece di dire Nazioni Unite, una volta ho detto Stati Uniti. Passano i mesi, arriva il 1975, l'anno dopo. Nei primi giorni ricevo un telegramma da New York. Dalle Nazioni Unite mi stanno offrendo di lavorare con loro. Naturalmente accetto, senza negoziare. Mi dicono di fare le vaccinazioni alla FAO e di aspettare i biglietti. Il lasciapassare per me è un documento per la mia famiglia che le dà il diritto di essere trattata col dovuto riguardo. Faccio tutto ciò che mi viene richiesto, solo che impiegano un sacco di tempo per mandarci i biglietti. Non potendo più aspettare, dato che ero senza documenti del mio paese, mi faccio rilasciare un documento di viaggio della Questura di Roma che, secondo le convenzioni internazionali sugli apolidi, mi permette di lasciare l'Italia, con l'unico dettaglio che sui documenti mi si scrive che non avrei mai più potuto tornarci. Faccio pagare i biglietti da mia moglie, che lavorava all'INAIL all'epoca, e il 28 di giugno del 1975 partiamo per Addis Abeba. Fino ad allora, nonostante avessi due lauree e due diplomi post-universitari, nonostante conoscessi sette lingue, non potevo lavorare in Italia, se non per brevi periodi di consulenza all'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Così, quella partenza da Silvi Marina alla vigilia di Ferragosto mi aveva permesso di lavorare alle Nazioni Unite, cambiando totalmente la mia vita. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, bang got wings. The hardest thing were the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. La puntata di oggi, che è la puntata del primo di maggio, quindi è la puntata della festa dei lavoratori, l'abbiamo intitolata Un lavoro ben fatto e abbiamo raccontato la storia di Abdullahi perché è una storia che parla di lavoro, è basata su una persona che trova un lavoro in maniera rocambolesca, con una telefonata nel cuore della notte, ma perché poi Abdullahi, adesso ce lo racconterà, ha avuto una vita che tra lavoro, spostamenti e famiglia è una vita veramente incredibile. Pronto, ciao Abdullahi, buongiorno. Buongiorno Matteo. Senti, dove ti trovi in questo momento preciso? Sei in Italia, giusto? Sì, a Roma. Alla fine sei tornato a vivere a Roma da quanto? Dopo la pensione. Ok. Che ho preso nel 1998. Ok, perché tu adesso hai quanti anni hai, Abdullahi? Giugno faccio 79. Wow, complimenti! Hai una voce giovanissima però. Beh, grazie. Senti, allora, grazie. Davvero la vita di Abdullahi, provo a riassumerla velocemente io perché, e poi ti chiedo delle cose specifiche. Tu sei della Guinea, dico bene, giusto? Sì. Sì, poi ottieni una borsa di studio molto giovane a Belgrado, ti diplomi in geometra, poi ti sposti prima a Firenze, poi vai a Parigi, poi torni in Italia, entri in università e studi statistica, poi fai una scuola di giornalismo, poi fai un anno in una scuola di Confindustria, poi ti sposi, hai tre figli e a un certo punto ti trasferisci a Vienna e poi fai giornalista, continui a lavorare, torni in Africa e fai un sacco di lavoro in Africa fino a che i tuoi figli tornano in Italia a studiare a Perugia e poi anche tu torni in Italia e solo a quel punto negli anni 80 tu ottieni la cittadinanza italiana, dico bene Abdullahi? Sì, 89. Come mai la ottieni così tardi? Perché è difficile rinunciare alla propria cittadinanza e i miei programmi erano che dovevo tornare con la mia famiglia nel mio paese di origine, okay, e installarmi là. Solo che c'era una dittatura che ce l'aveva con la mia etnia, che l'etnia Fulani. Ok. Così non ho potuto più tornare. Ma quindi idealmente tu avresti preferito tornare là o l'Italia comunque è un posto in cui vivi bene? No. Mio padre era un imprenditore di successo, mm-hmm, perciò la mia intenzione era tornare di far parte dell'azienda dirigenziale, sì, del paese, certo. Quella notte in cui arrivi a casa e sta suonando il telefono e il giorno dopo praticamente ti viene offerto un lavoro, come te la ricordi? Era il 14 agosto del 1974, sì. Eravamo a Silvi Marina, all'improvviso ho deciso che dovevamo tornare a Roma. Sì, tutti mi hanno preso per matto, dicendo tutti vengono verso il mare, tu torni a Roma, capita al mare, vai a Roma. Come è stato il colloquio all'aeroporto la mattina dopo? È stato piuttosto distensivo, perché ho incontrato una persona veramente fuori dal comune, che era un po' più grande di me. Abbiamo cominciato a parlare e lui ha scoperto che ero della Guinea, io ho scoperto che lui era del Ghana. Il discorso è filato liscio. Certo, vi siete riconosciuti in qualche modo. Perché, perdonami, la Guinea e il Ghana sono molto vicine, ma non confinano, dico bene. C'è la Costa d'Avorio in mezzo. Esatto, sì. Ok. Non sono proprio prettamente confinanti. Quando invece arrivi ad Addis Abeba, quanto vi fermate? Quanto lavori lì per le Nazioni Unite, poi? A Addis Abeba ho lavorato fino dal giugno 75 a novembre 77. E che posto è Addis Abeba? È una bellissima città. Bellissima città, solo che è troppo alta, è a 2400 metri di altitudine. Ah, certo. Per darti un'idea, se tu metti una candela accesa a 2 metri, 3 metri da te, soffiando puoi spegnerla. Ah, certo, perché c'è pochissimo attrito con l'aria. Questa è una bellissima immagine, non ci avevo mai pensato, quello che l'aria si sposta così velocemente da spegnere una candela. Senti, tra le varie cose rocambolesche della tua vita, c'è che tu, correggimi se sbaglio, sei musulmano ma ti sei sposato in Vaticano con tua moglie, che è cristiana. Sì, sì, sì. Perché in Vaticano? Perché non avevo i documenti per sposarmi in Italia. Era più facile sposarmi in Vaticano perché non potevo ottenere i documenti. Il dittatore del mio paese aveva deciso di privarci della nazionalità. Tutti noi che eravamo giovani non eravamo andati a vivere la rivoluzione sua. Ah, per questo tu dici che a un certo punto dici che sei apolide, cioè che non hai una cittadinanza. Appunto, sì. Ah, ok. Appunto. Ho capito, ho capito, ho capito. E quindi il Vaticano era più facile che in Italia, che a Roma? Che in Italia, sì, sì. Perché scegli un disco di Gabriella Ferri? Beh, perché Gabriella Ferri, Maria Carta, erano le mie cantanti preferite. Ok, ok. Avevo sotto, vicino al telefono, c'era il disco di Gabriella Ferri con la sua chioma bionda. E quindi allora, la prima cosa che hai trovato è stata quella. So che sei un grande, so che sei un grande tifoso romanista anche, Abdullahi. Sì. Senti, da sempre. I tuoi figli quanti anni hanno? Cosa fanno adesso nella vita? Il primo è export marketing manager di un'azienda che si trova a Udine, ma lui sta qua a Roma. Ok. E il secondo è funzionario della FAO, vice rappresentante della FAO. Della FAO? A Nairobi, sì, sì. Ah, e vive in Kenya quindi? Sì, sì, in questo momento sì. Abdullah, poi purtroppo devo salutarti. Tu quanti paesi hai vissuto e lavorato nella tua vita? Paesi che dove sono stato sono una settantina. Ok. Paesi dove ho lavorato saranno una dozzina. Senti, e da questo punto di vista, e poi davvero ti saluto, che idea ti sei fatto, avendo vissuto in così tanti posti diversi, avendo conosciuto il mondo in maniera così approfondita, che idea ti sei fatto del nostro paese, che idea ti sei fatto dell'Italia, cioè quali sono le cose buone, le cose meno buone di questo paese? No, Matteo, sarebbe troppo lungo parlare di ciò che è stato in Italia. Va bene, la prendo come una risposta. Abdullahi, ti ringrazio davvero molto per la storia e la chiacchierata. Quando vuoi, immagino tu ne abbia tantissime di storie, quindi se vuoi, quando vuoi mandarcene altre, noi siamo felicissimi di raccontarle. Ok, benissimo, grazie mille. Matteo. A presto, ciao Abdullahi, ciao, buona giornata. Un abbraccio, ciao. Change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. It a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. comfort you with my own two hands, but you got to use your own two hands, use your own two hands, use your own two hands, and with our own two hands, with our own two hands, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Oh, make it a brighter place. I can hold you and I comfort you, but you got to, got to, got to, got to, got to, got to, got to, got to use. I use your own. Oh, use your own, Lord. La puntata di oggi si intitola Un lavoro ben fatto e dopo la bellissima storia di un lavoro preso al volo, letteralmente al volo, con una telefonata notturna e un colloquio velocissimo in aeroporto poco prima di un aereo in partenza, ecco, dopo questa storia, ora ci ascoltiamo Le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra. Linee d'ombra. Per cercare di capire da dove arriva la storia di questa giornata, che è una giornata mondiale, la festa dei lavoratori è una giornata che riguarda non solo il nostro paese, non solo l'Europa, ma tutto il mondo, siamo andati a cercarla nel luogo dove si cercano le robe che riguardano il primo maggio, cioè sul sito del Comitato Primo Maggio, comitatoprimomaggio.it. Lì abbiamo trovato questa storia, che è una storia sorprendente perché appunto arriva da un paese che diciamo non è risaputo e non è conosciuto, perdonatemi, come un luogo in cui il rispetto per il lavoratore è così alto, insomma. Ad esempio, io avrei immaginato che tutto questo arrivasse da un paese del vecchio continente, no? L'Europa così rispettosa dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, piena di storie, eccetera, eccetera. Invece no, arriva dagli Stati Uniti. Comincia così questa storia. 8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire. È stata questa la parola d'ordine coniata in Australia nel 1855 e condivisa da gran parte del movimento sindacale organizzato del primo Novecento. Si aprì la strada a rivendicazioni generali e alla ricerca di un giorno in cui tutti i lavoratori potessero incontrarsi per esercitare una forma di lotta e per affermare la propria autonomia e la propria indipendenza. Ecco, il primo maggio nasce così, come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere geografiche, senza barriere sociali, per affermare i propri diritti e per raggiungere obiettivi per migliorare la propria condizione. In questa puntata, che si intitola Un lavoro ben fatto, la seconda sfera di oggi è proprio quella del primo di maggio. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Dal congresso dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, la prima internazionale, che si riunì a Ginevra nel settembre del 1866, scaturì una proposta concreta e scioccante per l'epoca: 8 ore come limite legale dell'attività lavorativa. A sviluppare un grande movimento di lotta sulla questione delle 8 ore furono soprattutto le organizzazioni dei lavoratori americani. Fino ad allora, infatti, i lavoratori non avevano diritti, lavoravano anche 16 ore al giorno, in pessime condizioni, anche rischiando la vita. Lo stato dell'Illinois, nel 1866, approvò una legge che introduceva la giornata lavorativa di 8 ore, ma con limitazioni tali da impedirne in realtà l'estesa ed effettiva applicazione. L'entrata in vigore della legge era stata fissata per il 1 maggio del 67, cioè dell'anno dopo, e per quel giorno venne organizzata a Chicago una grandissima manifestazione. 10.000 lavoratori diedero vita al più grande corteo mai visto prima per le strade di quella città. Ma la situazione non migliorò. Non migliorò fino a quando, nell'ottobre del 1884, quasi 20 anni dopo, la Federazione dei Labor Union, cioè dei sindacati, indicò nel 1 di maggio del 1886, cioè di lì a 2 anni, la data limite a partire dalla quale gli operai americani si sarebbero rifiutati di lavorare per più di 8 ore al giorno. Ma per avvicinarsi all'idea che abbiamo oggi del 1 maggio, si dovette aspettare 3 anni dopo. A lanciare l'idea è il congresso della Seconda Internazionale, riunito in quei giorni a Parigi. Diceva così: una grande manifestazione sarà organizzata per una data stabilita, in modo che simultaneamente in tutti i paesi, in tutte le città, nello stesso giorno, i lavoratori chiederanno alle pubbliche autorità di ridurre per legge la giornata lavorativa ad 8 ore e di mandare ad effetto le altre risoluzioni del congresso di Parigi. Poi, quando si passa a decidere la data, la scelta cade immediatamente sul 1 di maggio. Una scelta simbolica, perché 3 anni prima, il 1 di maggio del 1886, una grande manifestazione operaia che si era svolta proprio a Chicago era stata repressa nel sangue. Nell'86 cadeva di sabato, all'epoca, la manifestazione. Era una giornata lavorativa, il sabato. Ma in 12.000 fabbriche, negli Stati Uniti, 400.000 lavoratori incrociarono le braccia. Nella sola città di Chicago scioperarono e parteciparono al grande corteo 80.000 persone. Tutto si svolse pacificamente, ma nei giorni successivi scioperi e manifestazioni proseguirono e nelle principali città industriali americane la tensione si fece sempre più acuta. Il lunedì la polizia fece fuoco contro i manifestanti radunati davanti ad una fabbrica, erano lì per protestare contro i licenziamenti, e provocarono 4 morti. Per protesta fu indetta quindi una manifestazione il giorno dopo, durante la quale, mentre la polizia si avvicinava al palco per interrompere il comizio, fu lanciata una bomba. I poliziotti aprirono il fuoco sulla folla, si contarono 8 morti e numerosi feriti. Il giorno dopo, ancora a Milwaukee, la polizia sparò contro i manifestanti, erano per lo più operai polacchi, provocando 9 vittime. Una feroce ondata repressiva si abbatté contro le organizzazioni sindacali e contro le organizzazioni politiche dei lavoratori, le cui sedi furono devastate, furono chiuse e i cui dirigenti vennero tutti arrestati. Per i fatti di Chicago furono condannati a morte 8 noti esponenti anarchici, malgrado non ci fossero delle prove della loro partecipazione all'attentato. 2 di loro ebbero la pena commutata in ergastolo, 1 venne trovato morto in cella, gli altri 4 furono impiccati in carcere. Il ricordo dei martiri di Chicago era diventato il simbolo di lotta per le 8 ore e riviveva nella giornata che era dedicata, quindi, al lavoratore, il 1 di maggio. Man mano che però si avvicinava quel 1 di maggio del 1890, le organizzazioni dei lavoratori intensificarono l'opera di sensibilizzazione sul significato di quella giornata. Lavoratori, si legge addirittura in un volantino diffuso a Napoli, nel 1890, ricordatevi il 1 maggio di fare festa, in quel giorno gli operai di tutto il mondo, coscienti dei loro diritti, lasceranno il lavoro per provare ai padroni che, malgrado la distanza e la differenza di nazionalità, di razza e di linguaggio, i proletari sono tutti concordi nel volere migliorare la propria sorte e conquistare, di fronte agli oziosi, il posto che è dovuto a chi lavora. Viva la rivoluzione sociale, viva l'internazionale! Monta intanto un clima di tensione che è alimentato da voci allarmistiche. La stampa conservatrice interpreta le paure della borghesia e consiglia a tutti di starsene tappati in casa, di fare provviste, perché non si sa quali gravi sconvolgimenti potranno accadere. Soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Telling you still, but first you must learn how to smile and to kill. If you wanna be like all the folks on the hill, a working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Da parte loro i governi più o meno liberali o autoritari allertano gli apparati repressivi. In Italia il governo di Francesco Crispi usa la mano pesante, attuando misure drastiche di prevenzione e vietando qualsiasi manifestazione pubblica per la giornata del 1 maggio, ma anche per la domenica successiva, il 4 di maggio. In diverse località, per incoraggiare la partecipazione del maggior numero di lavoratori, si è deciso di fare slittare la manifestazione alla giornata festiva, la domenica. Del resto si tratta di una scommessa dall'esito abbastanza incerto. La mancanza di un unico centro coordinatore a livello nazionale rappresenta un grande handicap dal punto di vista organizzativo. Non si sa poi in che misura i lavoratori saranno disposti a scendere in piazza per rivendicare un obiettivo, quello delle 8 ore lavorative, considerato prematuro da gran parte dei dirigenti del movimento operaio italiano, o per testimoniare semplicemente una solidarietà internazionale tra la classe. Proprio per questo la riuscita del 1 maggio del 1890 costituisce una enorme sorpresa. Un episodio significativo che accade a Voghera, dove gli operai sono costretti a recarsi al lavoro ma ci vanno vestiti a festa. La manifestazione del 1 di maggio, commenta uno degli organizzatori, ha superato in ogni caso di molto tutte le speranze che avevamo riposte in essa. Ma non solo in Italia, anche negli altri paesi il 1 di maggio ha un'ottima riuscita. Visto il successo di quella che avrebbe dovuto essere una rappresentazione unica, viene deciso di riapplicarla anche per l'anno successivo. Il 1 di maggio del 1891 conferma la straordinaria presa di quell'appuntamento e induce la Seconda Internazionale a rendere permanente quella che da lì in avanti dovrà essere la festa dei lavoratori di tutti i paesi. Ecco, è iniziata in questo modo la tradizione del primo di maggio, un appuntamento al quale il movimento dei lavoratori si prepara con sempre minore improvvisazione e con maggiore consapevolezza. L'obiettivo originario, quello delle 8 ore lavorative, viene messo da parte e lascia il posto ad altre rivendicazioni politiche e sociali che sono a questo punto considerati ancora più impellenti. Si è molto discusso durante tutto il Novecento sul significato di questa ricorrenza, cioè se era un giorno di festa, di svago, oppure un giorno di mobilitazione e di lotta. Ecco, è sempre stato un binomio questo di festa e di lotta che accompagna la celebrazione del primo di maggio nella sua evoluzione, dividendo sia i fautori dell'una che dell'altra corrente. Qualcuno ha inteso conciliare gli opposti definendola una festa ribelle, ma nei fatti il primo di maggio è l'una e l'altra delle cose insieme. A seconda delle circostanze, più lotta o più festa. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Ecco la storia di questa giornata che non tutti conoscono e che appunto vi abbiamo raccontata, l'abbiamo trovata sul sito Comitato Primo Maggio, che ce l'ha raccontata per bene dagli albori, da quando è partita più o meno dal 1881, 1800, addirittura 1855, 1866, i primi tentativi per chiedere quella cosa che oggi sembra così banale, cioè le 8 ore lavorative massime e non di più, e non il doppio in alcuni casi. Poi chiaramente con quello che stiamo vivendo in questo momento il lavoro sembra, per molte persone sembra un miraggio e probabilmente sarebbero disposte a lavorare anche molto di più. Questo però è un altro paio di maniche, questa è un'emergenza, questa è una linea d'ombra che stiamo attraversando realmente nella nostra vita. Probabilmente però è proprio in questi momenti che è giusto ricordare da dove arrivano le nostre ricorrenze, perché che ci raccontano un pochettino chi eravamo, non per forza chi dovremo essere nei prossimi anni, però anche nei cambiamenti che affrontiamo durante la nostra vita privata e sociale è giusto sapere che il primo maggio, ad esempio, arrivava esattamente da lì. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui un vostro diario dalla quarantena che addirittura parla di opportunità. Linee d'ombra. Lo dicevo poco prima di lanciare Le strade in diretta, questo diario che vi raccontiamo oggi, così come tutti gli altri diari della quarantena che ci state mandando, e vi ringraziamo per farlo e vi chiediamo di continuare a farlo, lineedombra@radio24.it, è un diario che ci racconta di come per una donna, per una famiglia intera addirittura, questo tempo che si è liberato, anche se poi si è riempito di altro, perché si è liberato magari dalle abitudini solite, ma ne abbiamo aggiunte delle altre, ecco, questo tempo liberato per lei ha rappresentato una grande opportunità. Il mio diario della quarantena vorrei avesse un titolo ed è opportunità, parola che in realtà vorrei che venisse letta sussurrando, quasi in un soffio, per rispetto a tutte le persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. Ma ora comincio. La nostra famiglia è composta da me, mio marito, mia figlia Irene di 19 anni e mio figlio Francesco di 16. Poi ci sono Maya e Boris, due cani e una gatta dal banale nome, Micetta. Io sto andando a lavorare qualche giorno della settimana, mio marito invece è a casa da un mese. Come tutti all'inizio eravamo sopraffatti da questa nuova realtà, che però ci ha dato tempo e spazio per trovare altro. Questo altro è dato da piccole cose che accadono nel corso della lunga giornata in casa. È dato dalla possibilità di fermarsi di più a tavola a chiacchierare, ad esempio. È dato dal passare un pomeriggio con mia figlia a guardare una serie TV, magari tenendoci per mano. È dato dal cucinare insieme. È dato dal poter vedere la reazione di mio figlio appena finito un compito in classe che gli è andato male. È dato dal tenere sotto mano 4 libri e leggerli con molta calma, magari poche ore al giorno. È dato dall'avere il tempo di parlare con mio marito, non solo delle cose da fare, ma anche di chi siamo e di cosa vogliamo. È dato dal finire quello che si era iniziato e mai finito prima, come un golf di lana, ad esempio. Questo tempo dilatato che si replica giorno dopo giorno ci permette di ricominciare a fare respiri profondi, a dimenticarci dell'affanno e del respiro corto. I passi diventano più lunghi, i gesti più lenti e si torna ad avere un tempo più naturale. Si torna a fare le cose con cura, per il piacere di farlo, come cucinare, come ricamare, fare un tavolo, provare a piantare le fragole. Tutte cose che io e la mia famiglia abbiamo fatto in questi giorni. Così come il cielo e l'acqua tornano puliti grazie a questo stop mondiale, anche noi nelle nostre case facciamo pulizia per liberarci dell'inutile, del superfluo, dell'accessorio, del surplus che crea fatica, pesantezza e per sentirci subito più leggeri. Intorno a noi si riscopre il silenzio, la natura che va avanti in un vaso sul balcone, i nostri animali che si rasserenano e ci rasserenano stando insieme, i nostri figli con cui riscopriamo un rapporto di tenerezze e di attenzioni di cui non ci vergogniamo più, ma che capiamo invece quanto sia necessario mostrare. Ecco perché parlo di opportunità, perché ci viene dato del tempo da trascorrere forzatamente insieme e questo tempo ci permette di riscoprirci, di capire nuovamente quanto ci amiamo, di tenerci per mano per accompagnarci nei momenti faticosi che ad ognuno di noi in questi giorni capitano e di riuscire a ridere di un nulla e che capire che si è famiglia proprio in questo. Another year has come and gone, another circle around the sun, another thousand tears have fallen. I don't ever count them, 'cause I'm surrounded by your love. Days are never long enough. Four more seasons on parade show their colors, then they fade. But that won't happen to us, darling. We'll remember how it was. Ed ecco, vi dicevo che appunto questa storia, questo diario di quarantena aveva a che fare con l'opportunità Ed è strano come ci sia una forma di pudore che da una parte è corretto. Da una parte è corretto avere del pudore perché appunto quello che stiamo vivendo è un'emergenza sanitaria, prima ancora che un'emergenza che è e che diventerà economica e che sappiamo avrà delle ripercussioni. Però c'è un pudore e si sente nel racconto, nel dire: oh, sapete cosa? Tutto sommato alla fine non mi dispiace questa situazione che si è creata, che è temporanea. Però credo anche che da una parte, visto che la retorica dello state a casa è nata sin dall'inizio, e allora bene, stiamo a casa e cerchiamo di farla diventare un'opportunità. Per cui questo è davvero un invito a non vergognarsi del fatto che stare a casa, se si sta bene, se i propri parenti stanno bene, se ha la fortuna appunto di non piangere persone che ahimè non ci sono più, e allora cerca di fare di quel tempo il miglior tempo possibile. E quindi sì, può diventare anche un'opportunità, credo che si possa e si debba avere il coraggio di dirlo, altrimenti davvero rischiamo una facile retorica che si rischia sempre, si rischia sempre, la facile retorica è sempre dietro l'angolo. Però io trovo che questa storia abbia avuto il coraggio di dire quello che ci ha detto, e cioè che in questo tempo qua, in questo momento qua, perché la fortuna di non avere dei danni può diventare anche un'opportunità. Continuiamo invece a raccontarvi un'altra storia, che è la storia seriale che vi stiamo restituendo giorno dopo giorno, grazie a Mauro che l'ha raccolta e grazie a Irene, la protagonista, che ce l'ha raccontata. È la storia di una coppia che si ammala di questo dannato virus, che finisce in ospedale e fortunatamente guarisce. E in questa puntata, l'ultima puntata di questa settimana, Irene ci racconta come quello che sembra la fine di tutto, e cioè forse andiamo a casa dopo l'ospedale, in realtà si rivela essere l'inizio di un'altra storia ancora. Sì, siamo usciti insieme. Ecco, è stato, infatti quella era un'altra paura che avevo, che uno dei due rimanesse lì e si riperdesse un'altra volta il contatto, invece no, ci hanno dimesso insieme. Dopo 11 giorni di ricovero, la dottoressa si è avvicinata al vetro, ha aperto l'interfono per comunicare con noi e con un sorriso ha guardato Francesco e gli ha detto: è sorprendente. Io e mio marito ci siamo guardati senza capire, con un filo di voce. Francesco ha chiesto che cosa fosse sorprendente. E lei, sempre da dietro al vetro, ha risposto: c'è stato un miglioramento sorprendente. Per le condizioni in cui lei era entrato, ha recuperato davvero molto velocemente. Ci ha detto che sarebbero venuti a farci i tamponi e se tutto fosse andato bene ci avrebbero dimessi. Ti fanno due tamponi a distanza di 24 ore. E allora ci hanno fatto un giorno, il giorno prima di dimetterci, un tampone. E è venuto negativo a tutti e due. E il giorno dopo, il giorno della dimissione, ce ne hanno fatto un altro, il secondo. Però a quel punto ci hanno dimesso e noi non sapevamo il risultato del secondo tampone. Il giorno dopo, subito dopo il secondo tampone, il medico ha firmato entrambe le nostre dimissioni. Ci hanno chiesto se avevamo un posto dove andare, stando ancora isolati ovviamente, e considerato che nostro figlio Giovanni da un mese viveva con mia sorella, abbiamo detto che potevamo tornare a casa nostra. Poi abbiamo telefonato a nostro figlio per dargli la bella notizia. Gli abbiamo fatto una videochiamata dall'ospedale, tanto ormai aveva capito che eravamo stati ricoverati entrambi in ospedale. Lui, lì per lì, non capiva perché non potesse venire anche lui a casa con noi e non è stato facile spiegarglielo. Poi è arrivata l'ambulanza che ci ha riportato a casa. A quel punto pensavamo fosse la fine di un incubo, invece siamo piombati in una situazione, per certi versi, più complicata di quanto stavamo in ospedale. Quindi siamo venuti a casa e poi dopo due giorni ci hanno chiamato e ci hanno detto che il mio era negativo, quindi io teoricamente avevo finito. E lui invece era ancora a bassa carica virale, ma ancora non era del tutto negativo, quindi loro lo interpretavano che si stava negativizzando. Purtroppo però se non hai questo doppio tampone negativo non sblocchi nulla, non puoi riprendere bambino, non puoi uscire. Quindi noi ci siamo ritrovati, nel frattempo noi eravamo a casa insieme, quindi infatti ora non ho capito neanche per me come guarda, disperazione. E ormai lo stiamo capendo grazie alla storia di Irene, quanto complessa e quante sfumature di complessità ci siano intorno all'ammalarsi di questa malattia, che non ha a che fare solo ed esclusivamente con l'influenza, con i problemi respiratori, con i mille problemi da questa malattia, ma con la contagiosità e con la virulenza di questa malattia, e quindi con il concetto di isolamento, che in questo mondo è molto complesso. Anche se appunto l'idea dello state a casa sembra semplice, in realtà abbiamo scoperto in questi ormai 2 mesi che non lo è. Grazie comunque a Irene per continuare a raccontarcelo. La prossima settimana la sua storia finirà e ci racconterà come è finita. Lei sta bene, ovviamente, lo abbiamo capito, altrimenti non starebbe raccontando. Sta bene suo marito, tutto è rientrato, e quindi la sua storia in qualche modo è anche una storia di rinascita, soprattutto di guarigione, che è quello che sta succedendo finalmente a moltissime persone da un po' di tempo a questa parte. Grazie ad Anita Panizza, grazie a Mauro Pescio, grazie a Paolo Corleone, grazie a Luca Micheli, tutta la squadra di Linee d'Ombra che ci permette di continuare a raccontarvi storie tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 16. Se volete, domani di sabato alle 21.30 potete riascoltarvi il filotto delle 5 puntate di Irene, in cui ci racconta la sua storia. Cioè, da lunedì al venerdì le isoliamo dal resto della puntata e le mettiamo insieme in un pacchettino alle 21.30, altrimenti le trovate ovviamente in podcast. Ora lasciamo la linea al GR, voi passate un buon weekend, noi ci troviamo qui come al solito lunedì alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!